Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta. :17:06 minuti in questo momento, ben trovati da Vincenzo Miglietta per un nuovo appuntamento con Focus Economia. In primo piano oggi i mercati finanziari che, lo ricordiamo, non vivono in un mondo a parte e inevitabilmente risentono di quanto successo ieri a Barcellona. La scelta degli operatori, come sempre accade in questi casi, è allora quella di spostare gli investimenti su comparti ritenuti tradizionalmente più sicuri: metalli preziosi, titoli governativi e valute rifugio come lo yen giapponese. Nell'azionario è proprio il settore viaggi a pagare in modo più evidente l'avversione al rischio degli investitori a seguito dei fatti di ieri. L'indice Stoxx 600 Travel e Leisure, ovvero viaggio e tempo libero, è il più penalizzato sui listini europei con una flessione dell'1,5%. Al centro delle vendite vi sono in particolare le azioni delle compagnie aeree e quelle delle grandi catene alberghiere. Questi dunque gli effetti dell'attentato ieri di Barcellona. Le principali borse arretrano dunque in questo momento, anche se in misura inferiore rispetto alle prime fasi di negoziazione. Partiamo con un rapido sguardo da Wall Street. In questo momento Dow Jones meno 0,43%, Standard & Poor's 500 meno 0,27%, Nasdaq sostanzialmente sulla parità. Veniamo alle borse europee con Milano, FTSE MIB meno 0,18% a 21.746 punti. Come sempre, i migliori e i peggiori al momento del FTSE MIB. Vediamo rapidamente i migliori: Banco BPM più 1,66%, UBI Banca più 0,90%, Italgas più 0,75%, Bper Banca più 0,66%, Unicredit più 0,62%. I peggiori del FTSE MIB: CNH Industrial meno 3,54%, ricordati meno 1,69%, UX meno 1,60%, STM meno 1,53%, Telecom Italia meno 1,47%. I titoli più scambiati: Unicredit, Intesa San Paolo, Eni, Fiat Chrysler, Banco BPM, CNH Industrial. E quindi ancora gli altri listini europei: DAX Francoforte in questo momento meno 0,57%, Londra FTSE 100 meno 0,96%, Parigi in questo momento meno 1%, Madrid, oggi parliamo anche di Madrid, con meno 0,93%. Il cambio euro su dollaro, questo ci interessa tra l'altro perché sarà oggetto di un nostro primo approfondimento, 1,1749. Lo spread poi dei titoli di Stato BTP nei confronti del Bund tedesco a 160,80 punti più 0,56%. Tra gli altri temi di oggi di Focus Economia, attenzione ancora alle mosse delle banche centrali. Abbiamo detto ieri della Federal Reserve e di come all'interno dei vertici vi siano delle profonde divisioni su un intervento o meno sui tassi di interesse. Per quanto riguarda invece la Banca Centrale Europea, il nodo sembra essere quello che un euro troppo forte possa frenare la ripresa dell'economia europea, limitando gli effetti del quantitative easing. Ne parleremo tra breve. E poi altro tema di oggi: l'avvio nel fine settimana del campionato di calcio di Serie A, e allora l'occasione per fare il punto anche sui conti del calcio italiano e sui bilanci dei nostri club. Questi dunque i nostri temi principali. Potete scriverci al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Focus Economia o sul sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. Partiamo dall'oro, più 0,5% a $1,293 l'oncia, e poi il petrolio invece meno 0,5% a $46,8 il barile. Per quanto riguarda l'economia internazionale, al centro vi è un po' la Cina. La Cina perché criticata dall'amministrazione Trump, vedremo perché, ma comunque la Cina ha deciso di limitare le società cinesi nel fare investimenti all'estero in settori come immobiliare, hotel, intrattenimento e club sportivi per ridurre il rischio finanziario e sostenere l'economia, lo riferisce l'agenzia Bloomberg, spiegando che il Consiglio di Stato, in un comunicato sul sito del governo, ha detto che le autorità proibiranno anche investimenti all'estero nel gioco d'azzardo, mentre incoraggeranno le società a sostenere l'ambizioso piano nazionale di infrastrutture. Il Consiglio di Stato ha spiegato che gli investimenti in uscita saranno giudicati in base a tre categorie: vietato, limitato e incoraggiato. Il governo di Pechino sta cercando di limitare le fughe di capitali che indeboliscono la moneta e drenano le riserve di capitale. Nei primi 7 mesi dell'anno gli investimenti in uscita dalla Cina sono effettivamente crollati del 44,3% rispetto all'anno precedente, grazie proprio al freno alle acquisizioni all'estero imposto dopo il record nello shopping del 2016. E la Casa Bianca guarda proprio a Pechino. Steve Bannon ha dichiarato in un'intervista che gli Stati Uniti, Steve Bannon ricordiamo che è un importantissimo consigliere del presidente Trump, gli Stati Uniti si trovano in una guerra economica con la Cina e ha promesso azioni commerciali aggressive contro Pechino. Veniamo al nostro paese. A giugno il debito registrato dalle amministrazioni centrali è aumentato di 4 miliardi, quello delle amministrazioni locali è diminuito di 1,9 miliardi, il debito degli enti di previdenza è rimasto pressoché invariato, lo segnala Banca Italia. Sempre a giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 31,6 miliardi, meno 13,5 rispetto al giugno dello scorso anno, lo rileva sempre Banca Italia. Nei primi 6 mesi del 2017 sono state pari a 186 miliardi, meno 5,8% rispetto al corrispondente periodo del 2016. Il peggioramento è principalmente imputabile allo slittamento delle scadenze per il versamento di alcune imposte. Dicevamo delle entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato, sempre da Banca Italia. Invece il debito pubblico italiano segna un nuovo record. A giugno il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.281,4 miliardi, in aumento di 2,2 miliardi rispetto al mese precedente. Lo rende noto, abbiamo detto, la Banca d'Italia nel fascicolo Finanza Pubblica, fabbisogno e debito. L'incremento ha riflesso il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 8,4 miliardi, in parte compensato dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro per 6,3 miliardi a 52,6. Erano pari a 92,5 miliardi a fine giugno dello scorso anno. Parliamo di imprese. Meno imprese stanno portando i libri in tribunale. Tra aprile e giugno 2017, infatti, secondo i dati ufficiali Unioncamere Infocamere, sono fallite 3.008 imprese contro le 3.537 del corrispondente periodo del 2016. In termini percentuali la frenata è stata del 15% e segna una conferma del risultato dello scorso anno, quando si era già registrata una flessione del 3% rispetto al 2015. In relazione alla struttura imprenditoriale italiana, il fenomeno delle aperture di procedure fallimentari, sottolinea sempre Unioncamere, riguarda dunque un numero di imprese molto limitato. La riduzione del flusso di nuovi fallimenti è stata più consistente in termini percentuali nel Nord-Est, meno 16,8%, e nel Mezzogiorno, meno 16,5%. Nelle regioni del Nord-Ovest le aperture di procedure fallimentari sono state il 14,7% in meno dello scorso anno e al Centro il meno 12,2%. A livello settoriale il calo di procedure fallimentari interessa in particolare le costruzioni, meno 24,8%, il trasporto e magazzinaggio, meno 21%, le attività manifatturiere, meno 16,9%, e il commercio all'ingrosso e al dettaglio, con un meno 12,9%. Questi erano dati Union Camere. E poi un altro report invece sempre sulle imprese da parte di Intesa San Paolo. Mentre le imprese italiane arrancano, quelle avviate in Italia da imprenditori immigrati hanno conosciuto negli anni della crisi una crescita a due cifre, lo dice il centro studi di Banca Intesa San Paolo. Negli anni recenti, 2011-2015, infatti una riduzione complessiva dello 0,9% delle imprese presenti è la sintesi di una contrazione del 2,9% delle imprese italiane e di un aumento del 21,3% delle imprese fondate da migranti. Intesa San Paolo dà anche una spiegazione di questa dinamica. Un successo, quello degli stranieri in Italia, che dipende anche e soprattutto, come emerge dallo studio, dalla loro capacità di reagire alla crisi, ad esempio aumentando le vendite. Lo studio sull'imprenditoria immigrata in Italia analizza nel periodo 2012-2015 le performance economico-finanziarie aziendali e il posizionamento competitivo di un campione di oltre 135.000 imprese del manifatturiero e di alcuni servizi più aperti al mercato. Parliamo di alloggio e ristorazione, servizi alle imprese, trasporti e logistica. Da tempo in Italia, spiega lo studio, l'imprenditoria straniera costituisce una quota significativa dell'offerta imprenditoriale e una componente rilevante della demografia industriale. Negli anni recenti, soprattutto durante la grande recessione, il fenomeno si è ulteriormente rafforzato. A fine 2015 la quota delle imprese condotte da imprenditori immigrati aveva raggiunto il 9,1% del totale. Ed è interessante andare poi a sezionare questo studio di Intesa San Paolo. Gli imprenditori stranieri in Italia provengono soprattutto dall'est Europa, 37,7%, dall'Asia 32,8%, il 15,6% proviene dall'Africa, il 13,9% dall'America Latina. Ci concentriamo sulla Lombardia e parliamo di ristorazione, sempre qui andando nello specifico tra imprese che possono essere riferite a stranieri e ad italiani. Crescono le imprese della ristorazione straniere in Lombardia. Nel 2016 sono circa 6.000 tra ristoranti ed asporto, più 7,4% rispetto al 2015 e più 57% rispetto al 2011, contro una crescita delle imprese di titolari italiani del 2,1% in un anno e più 8% in 5 anni. Emerge questo dato da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano. Il peso dei ristoranti stranieri sul settore cresce, erano infatti il 22% nel 2011, sono quasi il 30% nel 2016, quasi la metà, quindi 2.886 imprese degli stranieri che fanno ristorazione nella regione Lombardia sono a Milano, dove pesano ormai per il 39% sul settore. Vengono poi Brescia con 690 attività, Bergamo con 465, Monza e Brianza con 410. Dal 2015 crescono soprattutto Sondrio, Mantova. Quanto alla nazionalità, sono gli egiziani i primi nella ristorazione straniera. Infine andiamo a chiudere le nostre notizie in breve, sempre con una notizia relativa alla ristorazione, ai consumi. Dopo un ventennio di crescita, più 5,3% punti percentuali tra il 95 e il 2014, la quota di spese obbligate, pur rimanendo l'aggregato più significativo, diminuisce di un punto percentuale, passando dal 41,8 del 2014 al 40,9 del 2017, a causa soprattutto di una decisa riduzione dei prezzi degli energetici e dei servizi finanziari. È quanto emerge da un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio sulle spese obbligate delle famiglie tra il 95 e il 2017. Quest'anno, evidenzia l'analisi, quasi il 60% delle spese obbligate pro capite, pari complessivamente a 7.000 euro, sarà destinato all'abitazione, 4.100 euro, all'interno dei consumi commercializzabili, oltre 10.200 euro pro capite nel 2017, determinati dalle scelte di spese individuali. I servizi hanno assunto un ruolo sempre più significativo, anche se il 64% è assorbito dai beni. Questa dunque la nostra ultima notizia per quanto riguarda le headline. Chiudiamo qui questo capitolo e andiamo al nostro primo approfondimento. Yeah, Nostro primo approfondimento dedicato alla Banca Centrale Europea, ma soprattutto al ruolo che può giocare un euro forte oppure un euro debole nello sviluppo dell'economia del vecchio continente. Ci aiuta a capire queste dinamiche il collega del Sole 24 Ore, Maximilian Cellino. Buon pomeriggio, Maximilian. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Allora, Maximilian, lo scrivi anche tu oggi sul Sole 24 Ore, andando ad analizzare anche i verbali delle ultime riunioni della Banca Centrale Europea, si nota come vi sia molta cautela nel non andare a turbare più di tanto i mercati con notizie. Questa è un po' una premessa, che possano limitare gli effetti del quantitative easing ormai in corso da tempo da parte della Banca Centrale Europea. Questo è finalizzato dunque, l'interesse della BCE, ad una ripresa economica. Per non turbare questo andamento, oppure un elemento che potrebbe turbare questo elemento, è l'euro, l'andamento dell'euro delle ultime settimane. Magari negli ultimi giorni si è un po' stabilizzato, ma nelle ultime due settimane almeno vi è stata una crescita, un rafforzamento dell'euro. Questo vorrebbe dire magari maggiori difficoltà per le esportazioni dell'Unione Europea. Perché vi sarebbero queste preoccupazioni da parte della BCE? Ma la Banca Centrale Europea, più che essere preoccupata per la crescita dell'Eurozona, quindi per le esportazioni delle aziende appunto all'interno dell'Eurozona, è preoccupata per gli effetti che l'euro può creare sull'inflazione. Non scordiamoci che la Banca Centrale Europea ha come mandato il controllo del tasso di inflazione nell'area, che deve essere vicino al 2%, un po' al di sotto del 2% anno, e non lo è ormai da diversi anni. È proprio questo il problema, questo è il motivo che ha spinto la Banca Centrale Europea a varare misure estremamente importanti di stimolo dell'economia, quello che noi chiamiamo quantitative easing, gli acquisti sostanzialmente di titoli di Stato. Tutto questo aveva l'obiettivo di tentare di risollevare quel tasso di inflazione che anche adesso rimane, anche, soprattutto una prospettiva di medio-lungo termine, abbastanza al di sotto, un po' troppo al di sotto del 2%, un po' troppo al di sotto di quello che vorrebbe la Banca Centrale Europea. Cosa c'entra in tutto questo l'euro come valuta? Sì. Ecco, un euro che si rafforza ha un effetto, tecnicamente si può dire, deflattivo, cioè tende ad abbassare l'inflazione. Questo, il motivo è abbastanza semplice e immediato, insomma: se l'euro è più forte si abbassa tutta quella componente dei prezzi che deriva dalle importazioni. In Europa, insomma, le nostre aziende importiamo moltissimi beni da di fuori dell'Europa, pensiamo a tutte le materie prime che sono denominate in dollari. Se l'euro si rafforza, la materia prima costa di meno, e questo può far piacere, sicuramente. Certamente. Fa molto piacere alle aziende europee, ma non fa piacere dal punto di vista dell'inflazione. Questa ha un effetto che abbassa l'inflazione, quindi aggiunge qualche grattacapo in più alla Banca Centrale Europea quando vuole perseguire il suo obiettivo di stabilità dei prezzi in un'ottica di medio-lungo termine. Quanto possa impattare l'euro lo si capisce da alcuni modelli. Diciamo anzitutto che quello che importa non è tanto l'euro-dollaro, che è quello che ci viene quello che è più è immediato, evidente, perché è il cambio più importante, noi guardiamo, certo, subito questo, ma il cambio effettivo dell'euro nei confronti di tutte le altre valute dei principali partner commerciali, ecco, questo si è apprezzato all'incirca del 5% da inizio anno e dai minimi raggiunti nella scorsa primavera. Quindi è un effetto piuttosto importante, un effetto che gli analisti valutano tra il 2-3 decimi di inflazione. Ora, un'inflazione che fatica a arrivare già a superare stabilmente l'1%, si è spinta sì per un effetto di base a primavera verso l'1,9% a livello europeo, adesso è tornato indietro. Se dovesse essere stabile questo rialzo dell'euro, questo rafforzamento dell'euro, rischia ancora di allontanarsi da quell'obiettivo, ed è questo quello che preoccupa la Banca Centrale Europea. Ancora di più la Banca Centrale Europea è preoccupata da movimenti repentini, veloci, come in effetti lo sono stati questi negli ultimi mesi, da quando diciamo il rally dell'euro all'incirca può essere fatto risalire dal momento in cui si sono stemperate alcune tensioni politiche nella nostra area e lo facciamo coincidere con il primo turno delle elezioni francesi, quando è stato chiaro che Macron andava verso la vittoria, quei problemi, quelle penalizzazioni che tutto il mondo ci tributava come Europa per un rischio politico si sono un po' dissolte, e questo è andato anche a favorire la nostra valuta, perché non ci scordiamo che da quel momento lì sono aumentati anche i flussi di investimento verso le borse europee e anche i titoli di Stato europeo, e questo contribuisce ulteriormente a rafforzare l'euro. Dunque, Maximilian, le preoccupazioni sono finalizzate poi come termine ultimo da parte della BCE proprio che l'azione di politica monetaria espansiva continui ad avere i suoi effetti. Questo è l'obiettivo principale di Francoforte. Questo è l'obiettivo, perché ovviamente un effetto restrittivo, insomma, sulla politica monetaria effettiva della Banca Centrale Europea non fa piacere e altera anche il meccanismo di trasmissione della politica monetaria della stessa Banca Centrale Europea. Questo in fin dei conti, cioè in soldoni, potrebbe portare la BCE e lo stesso Draghi ad essere ancora un pochino più cauta di quello che si pensava nel rimuovere le misure di stimolo. Al momento la Banca Centrale Europea sta acquistando titoli di Stato e altre obbligazioni per 60 miliardi di euro al mese, e questo andrà avanti almeno fino a fine anno. E quello che si può pensare è che la Banca Centrale Europea prosegua, quello che stanno pensando gli analisti, con il suo quantitative easing anche nel 2018, magari a un ritmo più ridotto, 40 miliardi al mese, ma non può permettersi di mollarlo del tutto, di smettere di acquistare titoli di Stato per non creare problemi sul mercato, ma anche proprio perché l'obiettivo di stabilità dei prezzi non è raggiunto, e in tutto questo anche l'euro forte può avere i suoi riflessi. Maximilian, ti ringrazio, grazie a Maximilian Cellino, collega del Sole 24 Ore. Noi passiamo a parlare dalla BCE ad uno sguardo agli Stati Uniti, concentrandoci sulla politica americana, ma anche proprio con un occhio alla Federal Reserve. Dunque, dalla Banca Centrale Europea agli Stati Uniti, e chi meglio coinvolgere in questa nostra discussione se non il collega del Sole 24 Ore, Mario Platero. Buon pomeriggio, Mario. Eccoci, buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi. Ecco, Mario, dicevamo pochi istanti fa della grande cautela da parte di Francoforte nel fare qualsiasi mossa, addirittura è cambiata proprio la comunicazione ai mercati, perché si è visto che qualsiasi decisione comunicata in maniera sbagliata può influire sui mercati. Cosa dire di fronte invece ad un'amministrazione Trump che va avanti quasi a spallate? Per esempio, prima ricordavamo le frasi di Steve Bannon e della sua quasi guerra annunciata commerciale alla Cina. Ma dunque, sì, in effetti il presidente Trump, come abbiamo visto negli ultimi giorni, si è mosso in modo molto scomposto, e questo non aiuta gli Stati Uniti, non aiuta la sua amministrazione. E devo dirti che però dietro queste posizioni di Bannon c'è una delle ennesime divisioni all'interno dell'amministrazione del presidente Trump, perché Steve Bannon è un teorico dell'idea che occorre sviluppare un confronto con la Cina e non con la Corea del Nord, perché secondo Bannon il vero nemico, il vero problema degli Stati Uniti nel teatro asiatico è la Cina, non la Corea del Nord, che in fondo è un piccolo paese. Dunque i generali invece, a partire da Jim Mattis, capo del Pentagono, oppure McMaster, capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, lo stesso John Kelly, che adesso è il capo di gabinetto di Trump, invece hanno l'idea che con la Cina bisogna collaborare, bisogna sviluppare un rapporto, e dunque per questo avevano deciso di puntare più contro la Corea del Nord. Poi il presidente si è espresso come si è espresso, naturalmente questo non aiuta, però le parole di Bannon in fondo secondo me contano molto poco oggi, tant'è vero che il presidente qualche giorno fa in conferenza stampa, quando qualcuno gli chiedeva ma qual è il futuro di Steve Bannon, ha detto beh, vedremo, perché Bannon oggi obiettivamente è in difficoltà, soprattutto dopo quello che è successo a Charlottesville. Certo. Gli sono stati in Virginia tra i neonazisti e coloro che cercano di difendere i diritti civili. Ecco Mario, abbiamo tante domande da rivolgerti, ci prendiamo una pausa per il meteo e poi torniamo con te. Focus Economia. Di nuovo insieme Focus Economia, stavamo parlando con il collega del Sole 24 Ore Mario Platero. Mario, allora dicevamo e abbiamo commentato le parole di Steve Bannon sulla Cina e sulla Corea del Nord, un Trump apparentemente più debole dopo i fatti di Charlottesville, e allora ti vorrei chiedere quali sono i suoi rapporti per esempio della sua amministrazione con la Federal Reserve? Beh, la Federal Reserve ha un ruolo, come sai, di totale indipendenza rispetto all'amministrazione, lo ha soprattutto adesso perché alla guida della Federal Reserve c'è Janet Yellen, che è stata nominata dall'amministrazione Obama e dunque è totalmente autonoma, ma a partire da gennaio Trump potrà nominare il nuovo capo della Federal Reserve perché la Yellen è in scadenza e dunque vedremo come si comporterà, ma sai, per quanto nomini qualcuno a lui vicino, c'è comunque un consiglio di governatori della Fed e le decisioni devono essere prese poi con una maggioranza, e quindi la debolezza di Trump è una debolezza intrinseca, è stato abbandonato per esempio dal mondo degli affari. Ricorderete alcuni giorni fa i due grandi comitati che aveva costituito lui stesso per una mano su come gestire l'economia, gli investimenti eccetera, si sono smembrati perché per protesta proprio per quello che lui ha detto e ha fatto nei confronti di quello che è capitato a Charlottesville in Virginia. Ha difficoltà anche col partito repubblicano, insomma, come si muove Donald Trump, devo dire, si muove male, è riuscito ad allinearsi il capo della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, che era un suo alleato, eppure ha chiesto le dimissioni, ha detto se ne deve andare perché ci ha aiutato con Obamacare. Insomma, è un personaggio che oltretutto abbandona anche i suoi alleati, i suoi soldati, coloro che sono al suo fianco nel momento in cui le cose magari non sembrano andare per il meglio, e questo naturalmente non manda un buon messaggio alla comunità politica, a quella del mondo degli affari e soprattutto a quella dei militari, perché il modo in cui si è comportato nella questione coreana è stato un modo, come dire, scomposto, e dunque si è alienato in questo momento Trump. La corrente politica repubblicana, che in qualche modo era vicina a lui, si è alienato il mondo degli affari e anche il mondo del Pentagono, che ritiene che nel momento in cui si devono fare delle dichiarazioni aggressive occorre farle seguendo prima la procedura diplomatica e poi quel fuoco e fiamme, come ha detto lui, che in genere non si annuncia. Lui stesso aveva detto: lo sbaglio di Obama è che dice prima quello che deve fare, cioè invece queste cose non si devono dire prima, si devono fare. È stato lui il primo a contravvenire a questa sua regola, a questo suo consiglio. Ecco, però Mario, un'ultima domanda. È vero che è stato abbandonato da quel mondo, ci ricordavi, corporate, dalle grandi compagnie, non è amatissimo da un certo ambiente, di sicuro è abbastanza amato dai mercati, almeno da Wall Street, che almeno fino a ieri e nelle scorse settimane ha galoppato come non si vedeva da mesi. Qual è la tua interpretazione su questo? Ma guarda, i mercati vanno avanti perché il corporate America va avanti, perché quelle aziende che hanno voltato le spalle a Donald Trump stanno facendo molto bene, hanno dei profitti buoni, riescono in qualche modo a migliorare la loro posizione competitiva perché l'economia sta continuando a crescere, ci sono nuovi occupati, ma questo è un trend che continua dal 2010, siamo nella ripresa economica più lunga che gli Stati Uniti abbiano avuto in molti molti anni. Certo, non sono gli ultimi sei mesi di Trump che hanno cambiato la situazione di fondo sia del corporate America, quindi dei profitti societari, che dell'andamento economico in generale, per cui il mercato si sta muovendo un po' per conto suo, come il dollaro si sta indebolendo per conto suo in risposta, ne parlavate prima, anche a certe posizioni della Banca Centrale Europea che Grazie, io ringrazio comunque Mario Platero, eravamo comunque in chiusura di questo spazio, ringraziamo ancora allora Mario Platero, collega del Sole 24 Ore, e noi abbiamo anticipato e parlavamo con Mario dei mercati e veniamo proprio ai mercati internazionali. Facciamo il punto sui mercati con il collega di Radio Core, il Sole 24 Ore, Paolo Paronetto. Buon pomeriggio Paolo. Buonasera, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Allora Paolo, oggi dicevamo borse internazionali comunque in negativo sulla scia di quanto accaduto ieri a Barcellona. Diciamo che è stata una seduta difficile proprio per l'aumento dell'avversione al rischio seguita all'attacco terroristico in Catalogna, inoltre continuano le incertezze che già sentivo citavate prima sull'agenda economica dell'amministrazione americana dopo la defezione degli amministratori delegati delle big americane ai consigli economici del presidente Donald Trump, così oggi è prevalsa l'incertezza e soprattutto le vendite, anche se bisogna dire che Piazza Affari sul finale è riuscita a recuperare la parità, ha chiuso sopra la parità più 0,12% grazie alla buona tenuta soprattutto dei titoli bancari e delle utilities, quindi i titoli più difensivi da una parte, le utilities e le banche guidate da alcune notizie, in particolare su Banco BPM che è stata il principale titolo sul FTSE MIB con un più 2,16%. Ecco Paolo, abbiamo notato che in presenza di queste tensioni internazionali che possono essere la Corea del Nord, come ieri purtroppo i fatti di Barcellona, in effetti gli investitori abbandonano un pochino i titoli bancari, invece in questo caso oggi le banche sono state premiate. Sì, diciamo che è una questione che riguarda soprattutto Milano, proprio perché a livello europeo il sottoindice del comparto bancario è comunque negativo, meno 0,37%. A Piazza Affari c'è appunto Banco BPM che ha guadagnato oltre il 2%, perché diciamo in un periodo abbastanza privo di spunti, alcune indiscrezioni di stampa sulla gara per la scelta del nuovo partner banca assicurativo dell'istituto che dimostrerebbero molto interesse da parte delle compagnie di assicurative per appunto siglare una partnership con Banco BPM, hanno sostenuto le quotazioni del titolo per tutta la giornata. Sulla scia di Banco BPM sono saliti anche altre big bancari italiane, a partire da Unicredit più 1,59% e UbiBanca più 1,39%. Ecco, vedo che ha rallentato e di molto Fiat Chrysler dopo le smentite degli interessi cinesi sul gruppo. Sì, diciamo che il titolo era salito molto nella prima parte della settimana dopo le indiscrezioni di Automotive News su un possibile interesse dalla Cina e negli ultimi giorni tre dei principali gruppi cinesi hanno smentito ogni interesse per il gruppo. L'unica non averlo fatto è Great Wall Motors, che era proprio tra quelli indicati dalle indiscrezioni, ma diciamo che l'appeal speculativo si è piuttosto ridotto e quindi gli investitori sono passati a prendere profitto dopo i rialzi della prima parte della settimana. Il titolo oggi ha chiuso in calo dello 0,74% e vale 10,7 euro. Ecco Paolo, dicevi bene le banche, dicevi anche bene le utilities e ci viene una curiosità quindi anche su Saipem, che vedo che tiene, immagino ancora sostenuta dalle notizie della commessa in Kuwait. Sì, diciamo che Saipem è un periodo, sono alcune sedute che viaggia in territorio positivo, sostenuta proprio dalla notizia dell'altro ieri della nuova commessa in Kuwait del valore di 850 milioni di dollari, e anche oggi in una seduta in cui tra l'altro quasi tutti gli energetici e le utilities sono stati positivi, il titolo ha guadagnato terreno, ha guadagnato un altro 0,92% chiudendo a 3,28 euro. E tra i peggiori dicevamo CNH Industrial. Sì, qui CNH Industrial è sceso dell'1,95%, in questo caso anche questo è un movimento di comparto, dato che la principale concorrente statunitense Deere sta perdendo oltre il 5% a Wall Street dopo la pubblicazione dei dati di bilancio che nonostante un aumento delle previsioni per fine anno hanno deluso gli analisti soprattutto sul fronte dei ricavi, che sono stati inferiori proprio alle previsioni del mercato, che quindi sta ora penalizzando il titolo e anche tutto il settore. E poi vedo sempre non bene Iux, Banca Mediolanum, tra i più scambiati Unicredit, Intesa San Paolo, Eni, Banco BPM, e tra i migliori, siccome abbiamo parlato di FCA, invece vedo Ferrari che è scorporata, ma più, se non sbaglio, più 0,69%. E sul finale ha fatto ancora meglio, io la vedo adesso in chiusura più 1,12%. Sì, certo, Ferrari è andata in controtendenza, del resto diciamo che da una parte è essendo un target naturalmente più di alto livello di lusso, è più difensivo e sconta meno la ciclicità del mercato. Dall'altra, in molti report odierni su FCA, gli analisti, pur appunto mettendo in secondo piano un'ipotesi cinese, hanno continuato a ragionare su possibili modi che la società potrebbe avere per estrarre valore con nuovi scorpori, citando proprio l'esempio di Ferrari come un'operazione di successo, e quindi è tornata anche a mettere i riflettori sul titolo. Ecco Paolo, un'ultima domanda. Immagino che gli effetti e l'atmosfera dell'attentato di Barcellona abbia influenzato anche le altre piazze internazionali. Parliamo poco di Madrid, ma fino a poco fa era comunque con segno negativo. Sì, Madrid ha chiuso, sta chiudendo in calo dello 0,56%, ha recuperato anche Madrid rispetto a un avvio in cui perdeva oltre un punto percentuale. Il titolo, l'indice peggiore è Londra con uno 0,8%, Parigi 0,64%. A livello europeo, per dare qualche dettaglio, i titoli peggiori oggi sono stati quelli del settore dei viaggi e del turismo, naturalmente penalizzati, certo, dai timori proprio legati all'attacco terroristico a Barcellona, mentre hanno tenuto relativamente le banche, che abbiamo citato già, in lieve calo 0,21% in questo momento, e anche i titoli delle materie prime che hanno ceduto nel complesso lo 0,51% e sono sostenuti in questo momento dalla corsa ai metalli preziosi, in particolare all'oro, che proprio nelle ultime ora ha registrato un aumento delle quotazioni. Benissimo, grazie Paolo Paronetto, collega di Radio Core Il Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo per le strade. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia che ci accompagna poi al GR delle 18. Nel fine settimana ripartirà, atteso da molti, il campionato di calcio di Serie A. Ci interessa logicamente l'aspetto sportivo. In questa trasmissione approfondiamo maggiormente anche tutto ciò che gira attorno alla Serie A, la ricchezza o meno della Lega di Serie A, dei club italiani, ma di questo argomento ne sa sicuramente più di me Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Marco. Ciao, buon pomeriggio. Marco, allora, riparte la Serie A e qual è il suo stato di salute rispetto anche agli altri campionati europei? Beh, il nostro purtroppo è un campionato che negli ultimi anni ha accumulato un gap sempre più ampio in termini di fatturato, di giro d'affari, in particolare con la Premier, ma anche con la Bundesliga e la Liga Spagnola. Per delle carenze strutturali legate agli stadi, a uno sviluppo commerciale ancora non paragonabile a quello delle altre big europee. È vero anche che però siamo a un anno molto particolare in cui si vedono e sono visti in queste settimane tanti investimenti sul mercato, c'è il ritorno forte delle milanesi, c'è effettivamente un certo risveglio sotto tanti punti di vista, e auguriamoci che questo sia un campionato appunto della svolta, anche legato al fatto che per esempio per la prima volta saranno messi in palio 4 posti dalla UEFA per accedere alla Champions League, e quindi al ricco montepremi della massima competizione continentale. Questo naturalmente permetterà anche ad altre squadre, oltre alle solite note, di poter ambire ad aumentare il proprio fatturato. Certamente Marco, faccio riferimento a quanto hai scritto in questi giorni, quindi cito alcuni numeri, la Serie A vale intorno ai 2 miliardi di euro, oltre 1 miliardo da diritti TV a fronte degli oltre 4 miliardi della Premier League, sempre intorno ai 2 miliardi il giro d'affari di Liga e Bundesliga, ma però il nostro campionato italiano chiude da tempo regolarmente in rosso circa 200 milioni di perdite l'anno. Perché queste perdite così regolari ogni anno? Facevi riferimento a stadi vecchi, a tutto ciò che ruota attorno ai club italiani che non è evidentemente commercializzato come si dovrebbe? Indubbiamente, il nostro è un calcio che è rimasto ancorato ai diritti TV, circa 1,2 miliardi all'anno, e proprio i diritti TV rappresenteranno uno spartiacque, perché in autunno, quindi con la ripartenza vera poi del calcio dopo la pausa del 2 settembre per la nazionale e per l'incontro Italia-Spagna, sarà di nuovo messo all'asta quello che è il pacchetto dei diritti TV per il triennio 2018-2021, un appuntamento fondamentale dopo che la prima asta è andata praticamente a vuoto, in cui si giocheranno anche tante partite a livello industriale tra Sky, Mediaset, Vivendi e magari, perché no, anche i cosiddetti over the top come Amazon, Facebook, che in tutto il mondo stanno acquisendo i diritti sportivi. E quindi sarà, come dire, o quanto mai opportuno per le squadre di Serie A quello di offrire un grande spettacolo, uno spettacolo gradevole, tanto da invogliare i broadcaster, le telco e i giganti del web a investire soldi importanti sulla prossima asta per superare questo 1,2 miliardi a cui, ripeto, la Serie A purtroppo è ancorata, mentre altrove, in Europa, in particolare in Premier, i diritti TV del calcio sono schizzati a cifre incredibili. Per la Premier parliamo di quasi 3 miliardi all'anno. E tra l'altro quasi 3 miliardi all'anno per la Premier League, che si traducono, abbiamo fatto alcuni calcoli, ma facendo sempre riferimento ai tuoi articoli, circa 80-90 milioni di euro per ogni squadra della Premier League inglese. Sono cifre che le nostre squadre italiane, guarda, si sognano, almeno sì. Quelle più piccoline. Assolutamente sì, Vincenzo, anche perché tanto per dare un ordine di grandezza, con i nuovi contratti della Premier, l'ultima squadra della Premier, cioè quella che retrocede, incassa dai diritti TV nazionali oltre 100 milioni di euro, più o meno quanto incassa la Juventus, cioè la nostra prima squadra. Questo per dare un attimo le proporzioni di come lo sport system, l'industria del calcio, si stia sviluppando in maniera incredibile in altri paesi, e come in Italia, dove avevamo negli anni 90 il calcio più bello del mondo, magari non quello più ricco, ma sicuramente quello che movimentava le maggiori somme, ecco, stiamo soffrendo da qualche anno questo grave ritardo nello sviluppo industriale del calcio. Ripeto, siamo in una fase molto particolare con gli investimenti cinesi, insomma oltre 400 milioni investiti tra Inter, Milan e Roma per lanciarsi all'inseguimento della Juventus. Il Napoli non ha acquistato grandi giocatori, ma ha investito nei rinnovi di Mertens e Insigne quasi 20 milioni tra ingaggi e imposte lorde. Questo significa che si sta tentando, come dire, di creare un campionato più equilibrato proprio per attrarre i soldi delle televisioni. L'importante però è che questi soldi non vengano poi sperperati in lauti, ingaggi e in commissioni enormi agli agenti, ma magari investite nello sviluppo infrastrutturale, che significa stadi, centri di allenamento, centri sportivi e reti commerciali, soprattutto per internazionalizzare la vendita dei prodotti legati ai club. Certamente Marco, ricordiamo che il club più ricco in Italia è la Juventus con 341 milioni di ricavi, una cifra che è però poco più della metà rispetto al club come Real Madrid, Barcellona o Bayern. Inter e Milan incassano tra i 220 e i 250 milioni di euro, il Napoli circa 155 milioni. Marco, mi sembra fondamentale per le squadre italiane dotarsi di uno stadio di proprietà, perché la Juventus ha segnato un po' questa strada. Guarda, ovunque in Europa sia stato costruito uno stadio, al di là dell'essere, come dire, di proprietà dei club, naturalmente rappresenta una importante leva di patrimonializzazione, ma gli stati di qualità che abbiano tutta una serie di servizi aggiuntivi che oggi soltanto in qualche piazza italiana ci sono. Ecco, aumentando questi servizi, dicevo, in Europa i club hanno aumentato in media del 30-40% il proprio fatturato, questo per darci l'idea di cosa significa oggi, insomma, fare calcio a livello industriale. In Italia si è mosso qualcosa dopo la Juve, sappiamo dei problemi a Roma, ci sono realtà che stanno tentando di modernizzare i propri stadi come a Bergamo, a Bologna, dei progetti invece che sono rimasti sulla carta come a Firenze, quindi si muove il sistema in maniera non omogenea e in questo senso forse servirebbe un maggiore intervento, una maggiore presenza del governo, della politica per indirizzare questo processo di rinnovamento che non riguarda solo lo stadio ma un intero settore economico, industriale che, ripeto, altrove fattura tantissimo e dà lavoro a tantissime persone. Ecco Marco, un altro capitolo è quello delle proprietà cinesi. Introduco questo argomento perché abbiamo aperto il Focus Economia leggendo un'agenzia dove si dice che la Cina ha deciso di limitare le società cinesi proprio nel fare investimenti all'estero e si cita tra i vari settori, a parte il settore immobiliare, l'intrattenimento eccetera, proprio i club sportivi, questo per ridurre il rischio finanziario e sostenere l'economia. Insomma, da Pechino dicono investite qui in Cina piuttosto che investire all'estero. Ora, da qui la domanda è abbastanza scontata. Allora, ci possono essere preoccupazioni per le proprietà di Inter e Milan e soprattutto per i loro investimenti? Guarda, a mio avviso no. Proprio l'altro ieri è stato acquistato il Southampton in Premier League. Credo sia il 28esimo club europeo acquistato da realtà cinesi. Bisogna essere sempre molto attenti nel leggere questi messaggi che arrivano dalla Cina, che è un paese pieno di contraddizioni, rappresentate dal fatto che ha un'economia capitalistica in un sistema politico comunista, quindi questo ci dà l'idea di come appunto certi messaggi vadano letti sempre in controluce. È evidente che attorno anche allo sport, all'entertainment, agli investimenti esteri si sono creati tanti problemi legati al riciclaggio che c'è da parte di Pechino, la necessità di tutelare la propria moneta e gli investimenti interni. Però c'è un piano di sviluppo sul calcio che parte proprio dal governo del presidente Xi Jinping, che ha come obiettivo quello di ospitare la Coppa del Mondo del 2030 e magari di vincerla, di fare della Cina una potenza planetaria del calcio. E da questo punto di vista, insomma, credo che al di là di evitare naturalmente dei casi di riciclaggio e di speculazione non controllata dal governo di Pechino, ecco, i flussi degli investimenti sul calcio non diminuiranno, saranno contingentati magari, ma non cesseranno, per cui anche i tifosi, insomma, di Milan e Inter, che poi credo che quello che interessi a tanti, possano stare tranquilli da questo punto di vista. Ricordiamo Marco che domani ci sarà una tua pagina proprio dedicata a questo argomento, per cui per i tanti tifosi interessati anche agli aspetti economici sarà una curiosità in più. Siamo quasi in chiusura Marco, ma allora un'ultima domanda anche dei nostri ascoltatori al 349-238-6666. Arriva invece sul tema del fair play finanziario, ci si domanda un'estate scoppiettante del calciomercato soprattutto da parte degli emiri del Paris Saint-Germain, possibile, si chiede, che il fair play debba funzionare solamente per alcune squadre italiane e non per queste grandi big estere? Ci spieghi un pochino in un minuto come funziona questo meccanismo? Provo a farlo velocemente. Il principio del fair play finanziario è che si può spendere quello che si incassa. Il Paris Saint-Germain per esempio è riuscito ad aumentare di molto il suo fatturato, soprattutto con grandi accordi tra imprese del Qatar, di proprietà del Qatar e il club, che in parte sono stati tollerati dalla UEFA, in parte hanno comportato qualche anno fa una sanzione, però oggi il Paris Saint-Germain, che prima del Qatar ha fatto quasi 550, per cui può permettersi paradossalmente certi investimenti. I nostri club come l'Inter sono finiti invece sotto sanzione perché il fair play finanziario agisce come un controllo posteriore, non preventivo, e di conseguenza devono attenersi a queste regole. Capito. Perfetto. Questo è un po' il principio che purtroppo poi crea queste contraddizioni apparenti. Grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, grazie ancora, e un ringraziamento a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, Alessandro Chiappini e Andrea Roccabella in regia, un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24. Libera la voglia di fare.